I carovanieri usano un codice basato sull'alfabeto per comunicare. Il primo dice Artsed, A-R-T-S-E-D, e lancia a destra. Poi uno dice Orteid, O-R-T-E-I-D. Quindi in che direzione lancerà la chiave?